che musica mi ha messo di sottofondo. Non lo so, mi ha detto prendi un CD a caso, così è stato. In effetti è abbastanza inquietante. Io sono mezzo malato, per cui dovete parlare voi. Cosa succede stasera? Succede che abbiamo le nostre tre ragazze, le fuorisedia. Buonasera, buonasera. Buonasera, Viola, Valeria e Letizia, che ci devono raccontare di un'iniziativa. Chi parte? Chi... Vado io. Valeria. Oddio. Vado io. Valeria, okay. Vai. Allora, oggi è uscito il programma ufficiale definitivo del prossimo progetto che faremo all'interno di un progetto di adiacenze. Il progetto si chiama Closer ed è Radio 12 to 12, che sarà una maratona radiofonica che faremo dalle 12 del 29 marzo fino alle 12 del 30 marzo, quindi saranno 24 ore consecutive e saremo negli spazi di adiacenze e avremo una serie di ospiti per ogni ora e che intervisteremo insieme a musicisti, a amici che faranno rubriche e quindi avremo una serie di eventi, ospiti appunto che si susseguiranno in tutte queste 24 ore e ovviamente invitiamo un sacco, cioè tutte le persone che ci stanno ascoltando a venire perché ci sarà il pubblico e quindi sarà un evento aperto al pubblico e avremo anche la diretta su YouTube e Twitch, forse anche Instagram, da capire se riusciamo a farla, sì. E quindi niente, sarà un evento molto lungo, comunque sì. Cercheremo di sopravvivere. Avanti. Riguardo il programma, hai detto che è uscito il programma dove? Dove lo possiamo trovare? Dove lo possono trovare? Allora, il programma è uscito su Instagram nel profilo nostro e di adiacenze, quindi sui nostri canali social, di adiacenze e di fuorisedia. Ok, perfetto. Che potete trovare su Instagram e so due sì. Post fissati. Sì, anche lo fisseremo. Grazie del consiglio. Fisseremo. Ok, sì, perché sono andata a cercare. Io volevo specificare il fatto che le 12 è mezzogiorno. Le 12 non sono esatto. Le 12 di mattina. Esatto. 12 to 12. Mezzogiorno da mezzogiorno a mezzogiorno. Ah, fra l'altro non vi ho detto una cosa. Ho detto a Francesca Disconzi di Osservatorio Futura di venirvi a trovare domenica mattina. Ah, sì. Perché lei fa una cosa al 5C Lab sabato sera, esattamente nello stesso momento in cui c'è Coxo Spaziale a... hai fatto uno spoiler. Stai spoilerando il programma, perché questo così. È un grande spoiler. Ah no, fra l'altro sì, no. Quello dai, dillo tu. Lo dico io. Dillo tu. Che ci sarà una puntata di Coxo Spaziale che andrà live dentro a 12 to 12, ma che poi verrà registrata e messa online, e messa dal vivo, cioè verrà trasmessa qui sui 103.1 FM e anche della DAB, che abbiamo scoperto esistere davvero, il 21 aprile, ovvero Pasquetta. Pasquetta. Luppi. Sì, sì, una cosa che non ho detto a Cinfia e a Lisa, che devono venire anche loro ad adiacente sabato sera. Ah, ecco, no, infatti, perché sì, ci siamo io e Chiara Pergola, per cui vedrete la persona che sostituite, ma... insomma dalle 20:15 però yes, ok, yes, yes. esatto, ma è tutto sul programma comunque. Infatti guardavo proprio quello. A proposito di venirvi a trovare di persona, chi volesse venire a vedere la diretta in presenza, indirizzo dello spazio di Acenze, eccoci qua, già cadiamo via Vicolo Spirito Santo 1B, 1B Bologna, che noi diciamo sempre Santo Spirito, ma sì, sbagliamo Santo. Sempre vabbè, ricordiamolo, no? Spirito Santo esatto, quello che ci serviva per sopravvivere. Però non è l'unico posto dove si può vedere e ascoltare. No, esatto, perché noi verremo proiettate, diciamo così, da tre spazi, uno di Napoli, uno di Roma e l'altro di Prato. Napoli Radio Ashram. Condotto 48 di Roma, che è un artist run space, e CUT, circuito urbano temporaneo di sì, però nella veste della sede di della Project Room Materiale, esatto, perché hanno diversi spazi e ci proietteranno lì, esatto, in via Santa Trinità, ecco, 71, no, ottimo, lo ricordo. Sì. Ma dunque non è solo audio questa cosa, è anche no, è audio video. È audio video. Audio e video. È una novità questa, sì, no? Sì. Esatto. Per complicarci ulteriormente, per complicarci la vita. Non bastava. Sì. Volevamo dare anche un'immagine proprio a tutta la diretta. Mm-hmm. Quindi è una radio un po' così. Una radio un po' video. Un po' video, sì. In realtà. Però sì, insomma, volevamo... Beh, come è sempre stato poi il vostro podcast. Esatto, quindi volevamo rimanere in linea. Pur essendo un podcast era molto visivo. Esatto, esatto, sì. Esatto. Un video podcast. Un video podcast, esattamente. Sì, sì. Esattamente. Il podcast è su Spotify, in versione sia audio che video. E anche su YouTube. Esatto, sì. Esatto. Ah, anche su Spotify si può vedere? Sì, sì. Ma perché Spotify si è fatto questa evoluzione, per vedi. Cui... E io non avendo Spotify... Non sapevo ci di questa, sei anche tu, di ti abbiamo visto Stefano. Anche se la qualità video è molto più bassa. Sì, sì, ma poi è piccolina, però. Adesso facciamo un dissing a Spotify. No, vabbè, no, per carità, Spotify. Voglio vogliamo fare che se ci cercano per vederci, meglio tanto YouTube. Val, sì. Però sì, ma anche perché caricare il video ci metti anche un sacco su Spotify. Facciamo questo momento lamentela, scusate. Però no, tutte e due le piattaforme, sia video che audio. Certo. Mentre invece il nostro Marco Roma, come al solito, eccoci, stavamo aspettando, ci ha salutato anche oggi. E naturalmente, se volete farlo anche voi, 333 180 94 94, mandate un WhatsApp o un audio, come dai, ha mamma. Fatto lui. Anche io l'ho mandato a mia mamma, spero scriva qualcosa. Si sentirà? Buongiorno, eccolo. Mi mancano i tuoi sguardi, vederti così imbarazzata, mi manca vederti sorridere insieme a me in fondo al mare, mi manca vederti così insieme a me. Buongiorno da Marco Roma. Ecco, poverino, eh. Oggi Marco Roma in fondo al mare, un po' sirenetto. Un po' sirenetto in fondo sì. al mare. Ah, oh, gli manca vedere il suo sguardo. Però sai svegliarsi tutti i giorni come Marco Roma. A me manca un po' la voce invece oggi. Perché questa diretta? Perché tutto questo? In realtà abbiamo detto tutto. Grazie. Facciamo quello chi perché. Chi te l'ha fatto fare questa cosa? Beh, esatto, questo ce lo chiediamo tutti i giorni. Sì. E, no, quando Amerigo Mariotti e Giorgia Tronconi, che sono i co-direttori di Adiacenze, ci hanno chiesto di realizzare un evento che è uno degli eventi conclusivi di questo macro progetto che si chiama Closer, siamo messe lì, insomma, a fare un po' di brainstorming, capire cosa poter portare di nostro, e tutti i crediti a Viola per questa idea. tutte le colpe in realtà, perché ci propone questa radio che in origine, questa è una cosa che prima volta che diciamo, cioè l'idea iniziale era tipo una roba di 72 ore, cioè volevamo fare una cosa che ci siamo poi un attimo tirato indietro, abbiamo detto no, forse ragioniamo meglio sulla fattibilità del tutto. E ci piaceva l'idea di occupare lo spazio per così tanto tempo e fare qualcosa che sì, fosse veramente una maratona, no? Però dare poi la possibilità al pubblico di scegliere anche cosa ascoltare, e quindi con tutta questa rosa di ospiti che insomma faranno il grande lavoro in realtà, perché poi noi saremo lì di sostegno, in dialogo, però insomma il grosso a livello tematico lo fanno loro, portando i loro dialoghi, le loro argomentazioni, ecco. Sì. Quindi sì, l'idea è nata un po' così, da 72 a 24 a 24 okay. ore ci siamo esatto. ridimensionati, no, perché appunto l'idea era un pochino più punk forse all'inizio, sì, cioè volevamo proprio scuottare Adiacenze, nel senso stare, a parte che comunque lo faremo perché monteremo i materassini anche semplicemente per stare lì per dormire ogni tanto, esatto. Però ecco, no, volevamo, cioè era nata con l'idea di occupare quello spazio per tot giorni. Ok. E magari anche avendo una programmazione più libera, non così tanto serrata come quella che abbiamo fatto, però ecco, sì, qualcosa di un pochino più improvvisato. Poi col tempo, diciamo, anche a fronte di tutto l'anno che abbiamo avuto, l'anno passato, intendo, appunto con la passata stagione di Fuori Sedia, che invece... insomma, essendo anche il nostro podcast frutto di un bando specifico, dovevamo sì, perché appunto in realtà nasce come Solidarity Project, quindi è un bando europeo, e quindi avevamo una determinata scaletta, degli orari molto fissi, cioè diciamo che già partecipando l'anno scorso al bando avevamo degli obiettivi prefissati anche a livello di ospiti, quindi è stata anche un po' una scusa per dire: ma vogliamo continuare questa cosa e cercare di uscire anche fuori dal format che ci siamo autoimposte, e abbiamo si provato fare una cosa sì. un po' così, hardcore, così provare sì, a vedere come, cosa ne uscirà fuori, però sfidare noi stessi sì, tutto. Esatto. E sì, è un sì. pre seconda stagione. Esatto, sì, okay, proprio noi ci mettiamo alla prova così. Sì, tra aprile dovrebbe uscire la seconda stagione, quindi facciamo questo evento anche un po' per ritornare e scaldarci un po'. Per lavorare sì, sull'avere sì. degli obiettivi. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Poi iniziamo col botto, ecco. Ok. Mi introduco, scusa Cinzia, sono non mi vedi da qua. Ma avete qualche spoiler invece per qualche spoiler della seconda stagione? Non so che ci potete qualche dire, no? Qualche cosa che ci potete dire? Potremmo fare un... Forse non saremo solo da Diacenza. Esatto. Questo sì. Sugli ospiti mi terrei un po' più frenata perché dobbiamo ancora contattare tutti. Esatto. Quindi poi magari diciamo, facciamo qualche nome e poi non apparirà mai. Okay. Quindi sugli ospiti mi terrei un po' di più. Però sì, non saremo, forse non saremo solo da Diacenza. Sì, esatto. Bene, quando allora, dici la data... Scusa. Quando dici la data di partenza, di uscita della seconda stagione, non parliamo di far uscire tutte le puntate insieme, ma di avere una cadenza sì, periodica? Sì, sì, sì. Quale? Noi nella prima stagione avevamo una cadenza di un episodio ogni due settimane, okay, quindi due episodi al mese, uh-huh, che però ci eravamo un po' prefissate, anche come diceva Viola, dal bando europeo che abbiamo partecipato, che dovendo scrivere già in anticipo il bando, avevamo quello di obiettivo e quello dovevamo fare. Ora diciamo che non abbiamo mamma Europa che ci controlla, okay, come diciamo noi, quindi siamo un po' più libere volendo, quindi okay, questo adesso spetta a noi. Anche sì, se ci piace, cioè almeno a me piace l'idea di tenere sì, due sì, puntate sì, al sì, mese, cioè mi sembra una tempistica anche per noi sostenibile, perché una puntata al mese è troppo poco. Una alla settimana. Una settimana infattibile, quindi due al mese sono la via di mezzo sì, giusta sì, che può funzionare sì, ecco, sì, sì, sì, anche sì, quest'anno, cioè anche per la seconda stagione. E un altro buono proposito è anche quello di registrare col pubblico tutti gli episodi, perché abbiamo sperimentato la scorsa stagione per gli ultimi due e ci è piaciuto molto, appunto anche questa... Questo evento di questo weekend sarà aperto e vorremmo cercare di appunto creare... cioè far sì che Fuori Sedia sia un evento virtuale ma anche un evento fisico quando registriamo. Sure. Questi erano gli Ada, che questo pezzo è uscito venerdì scorso, si intitola Sfortuna, il primo assaggio del nuovo album, mi dice Agnese di Per Press, che me l'ha mandato e che ringraziamo. Grazie. Prego. Allora, dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti che vi vorrei chiedere il tema del progetto radio. Yes. Perché non l'abbiamo affrontato questo, l'abbiamo giusto sfiorato un attimo, ma poi... Allora, come dicevamo, questo evento, queste 24 ore di radio sono all'interno di questo progetto, questa rassegna di eventi diffusi che si chiama Closer, che prende le mosse dal 150esimo anno, anniversario. Dalla nascita di Guglielmo Marconi, quindi inventore della radio. Che però era l'anno scorso. È un progetto che è iniziato l'anno scorso. Esatto. E sta finendo adesso. Ci sono dei messaggi. Ecco. Ciao Sedie, troppo brave, super proud, voglio far parte di una delle registrazioni ora, auto invito a Bologna. Baci Cla Cugvale. Ah, è mio cugino. Ok. Un saluto alle Sedie, soprattutto alla Valeriona da Bazzano. Eccolo! Ah, alla Valeriona. Ciao Stefanello, bacetti. Vi vogliono bene. Insomma. Sì, grazie. Mm-hmm. E, quindi diciamo che il fil rouge tematico è quello delle connessioni, delle relazioni contemporanee, della parola anche nella relazione oggi, e quindi noi chiaramente ci siamo accodate al tema, e per cui sì, sono questi gli argomenti che affronteremo di base, declinati tutti in maniera estremamente diversa, grazie a questa... questi ospiti che insomma ognuno si occupa di qualcosa di diverso. Mm-hmm. E quindi parlerà e affronteremo questi argomenti qua declinati in modo diverso dall'altro. E saranno tutti presenti gli ospiti? Come funziona? Pensate tutti? Non so se lo... Vabbè, non saranno tutti in presenza in realtà. Okay. E poi anche nel programma è specificato se ci sono degli interventi in video call oppure se sono degli interventi appunto in presenza. Ma questo perché un po' anche per riuscire a riempire tutti gli slot possibili e quindi anche le ore notturne, abbiamo iniziato a contattare ospiti un po' in giro per tutto il mondo. Mm-hmm. E motivo per cui avremo due curatrici, in particolar modo una di loro anche artista newyorkese, che sono Chloe Bass e Laura Rajkovic. Avremo una ricercatrice italiana che però appunto attualmente è a Giacarta, che è Paola Pietronave. Okay. E poi in video call in realtà abbiamo anche non per forza persone insomma che non si trovano in Italia, ma abbiamo ad esempio appunto Stefania Rinaldi, che è la curatrice di Materiale, che è uno degli spazi che ci proietta. E poi le comari dell'arte. Sono queste comari dell'arte. Sono è un altro podcast. È un altro le nostre competitor. Ma in realtà amiche. No, esatto. Podcast nel podcast, come sì, abbiamo chiamato il loro slot. Perché anche loro parlano d'arte. Esatto. E sono in due, tre, non mi ricordo, tre forse. Penso che si collegheranno alle 14 in video call sabato. Esatto. Okay, così beh. Come Tellurio Museale, che è un altro podcast sempre che affronta tematiche culturali, in particolar modo tematiche legate alla museologia, che invece avrà lo slot della mattina della domenica. Presto. Infatti faremo colazione con... e poi c'è Amerigo che fa la rassegna stampa alle 6 di mattina. Sì. E Amerigo ci dovrà sorprendere. Non sappiamo cosa farà. Però sì, comunque alla base c'è la radio, le possibilità di connessione che dà la radio e quindi poi tutto quello che si può sviluppare da questo tema qua iniziale. Sì, poi tra un ospite e l'altro invece appunto avremo degli interventi musicali da musicisti e musiciste che improvviseranno, quindi avremo live i musicisti che suoneranno per noi, quindi motivo in più anche per venire dal vivo e godersi il concerto di musica. Anche perché sono 15:45, 16:50, 20, sono diversi interventi nella giornata. Esatto, sì. Esatto. Anche nella seconda giornata, sì. Sì, infatti il programma è utile perché si può effettivamente scegliere per chi verrà quando venire, cosa sentire, cosa non è obbligatorio stare 24 ore. Per alcuni sì. C'è il bavaglio all'ingresso, manette e bavaglio. Esatto, per il circolino degli amici di fuorisedia in realtà più si sta meglio è. Cioè, esatto. si prendono punti su... Bisogna portare da mangiare. Stefano, tu mi dicevi prima... Perché 24 ore... Mi diceva Stefano prima che lui ci teneva a rimanere 24 ore. Certo. Vabbè, sì. In realtà mi dicevate... Saranno 23 perché sì, c'è la cambia dell'ora. Infatti Sfiga vuole che scegliamo esattamente il giorno in cui c'è il cambio dell'ora. Quindi noi stiamo tutti questi, cioè tutte queste settimane ad impazzire, incastrare gli ospiti quando può uno, non può l'altra. E incastra tutti e poi scopriamo che abbiamo un'ora in meno in realtà. Fantastico. E quindi abbiamo l'ansia di dover rimodulare un po', no? Anche cioè, dire agli ospiti, beh, no, certo, guarda, in realtà sei a quest'ora perché c'è il cambio dell'ora, in realtà invece l'abbiamo risolto. Sì, in modo molto più semplice, ecco. Sì. Ottimo. Ma chiaro, sì, ma sì, per forza doveva esserci, perché queste settimane poi di panico generale, di organizzazione, fai disfa eccetera, arriva questo messaggio tuo, credo, sul gruppo. Sì. Raga, indovinate quando è che cambia l'ora? Cioè, ho detto no, non è possibile. Tra tutte le cose, anche questo. In effetti, dalle 3 alle 5, libere, esatto, frequenze, mi sa che è quello l'orario eliminato, esatto, no? Sì, okay, sì. Esatto. Mettiamo musica. Mettiamo la musica. Risolviamo il problema. Perfetto. E durante ogni spazio quanti musicisti? È un po' a caso? Dipende, poi appunto c'è il nome o del gruppo nel caso che si tratti appunto di collettivo specifico, oppure se è un ensemble improvvisata ci sono i nomi soltanto di chi suonerà in quel momento. Un po', cioè, abbiamo immaginato che fosse di creare delle situazioni stile jam session, uh-huh, e tutte queste persone sono state contattate da Leonardo Vita, che ringraziamo anche qua in diretta, che è stato anche l'autore della sigla di Fuorisedia, okay, podcast, e appunto lui insomma ha molti contatti all'interno del conservatorio, tra l'altro si laurea settimana prossima in musica elettronica, okay, e quindi ha contattato tutti diversi compagni di corso, sì, esatto, che insomma ha organizzato questa sessione di jam session varie. Abbiamo altri messaggi, questa volta da Bibi e Naira. Eccola, Damaman. Che appassionate di arte contemporanea per necessità. Dice, di nuovo. Dice, non potrò esserci fisicamente, ma sarò collegata 12 to 12 caraffe di caffè. Grazie mamma, non ci credo, ma grazie per l'impegno. Perché neanche noi saremo collegate 24 ore su 24. No. Noi in tutto questo dormiremo a turno. Sì. Ah, ecco. Avremo potreste la nostra bandina. Il sonno leonardiano. Leonardo da Vinci dormiva 15 minuti ogni 4 ore. Esatto, sarà così. Ma noi abbiamo un materassino anche per te, però, Ste. Ah, sì, perfetto. Ottimo. Molto bene. Ma... Per farlo stare 24 ore. Bene, io vi devo interrompere tutti perché c'è la pubblicità delle 20:30. E dunque pubblicità, quindi così tocca. Pubblicità. Ed eccoci tornati, e nel frattempo naturalmente Cinzia continuava a intervistarle anche sì, durante la pausa. Sì, perché mi interrompete sempre sul più bello, sto facendo domande e poi... Allora, noi ripetiamo volentieri. Questa è tutta colpa di Stefano, io proprio le mani ancora in regia non le ho messe. A me era rimasta una domanda lì così, tipo, ma siccome parlavi del fatto che per la seconda stagione ragionavate sugli ospiti, ma non siamo sicuri che... Per questo evento avevate pensato tutto così come si è realizzato, oppure ci sono stati modifiche, cambiamenti, cose in corso d'opera? No, assolutamente no, anche perché inizialmente addirittura la struttura doveva essere proprio con degli slot prefissati che ognuna di noi avrebbe dovuto gestire a turnazione, quindi tipo ognuna conduceva per 2 ore, poi un'altra, poi un'altra, così via. Quindi in quelle 2 ore ognuno si doveva organizzare chiamando i propri ospiti. Poi la cosa è diventata degenerata dal momento che ognuna chiamava, sì, perché quando abbiamo fatto la lista delle persone erano tutti ospiti interessanti per tutte, quindi diventerà tutto molto più libero e sciolto. Apro una parentesi, anche il panico di occupare 24 ore, quindi sì, chiami veramente, ecco, tutte persone interessanti, però veramente contatti chiunque, perché ti rendi conto che vuoi tutti, no? E devi anche riempire quelle ore lì. No, esatto, esatto. E poi appunto, ad esempio, quando abbiamo contattato Chloe Bass, di cui parlavo anche prima, che è la direttrice dell'Accademia di Pratiche Sociali di New York, è stata lei proprio a consigliarci di contattare sia Laura Rajkovic, che onestamente non mi aspettavo neanche che accettasse, uh-huh, perché per me è tipo un altro mondo, e Ellen Coe, che appunto è un'altra che mi sono scordata di menzionare prima, uh-huh, un'altra ospite che invece interverrà domenica, che è la biografa di Nam June Paik, che anche lei si collegherà da New York. Okay. E quindi ad esempio questi sono due nomi che ci sono stati passati tramite passaparola, letteralmente. Sì, poi abbiamo avuto anche delle persone che purtroppo non erano disponibili in quei giorni lì, in quel weekend, erano via, avevano altri impegni di lavoro, quindi non riescono ad esserci per forza di cose. Quindi sì, diciamo che noi abbiamo contattato tante persone e poi per forza di cose il cerchio si è un po' ristretto per impegni personali. Sì. O comunque è cambiato anche d'opera. Sì, sì, sì, no, assolutamente. E in questa occasione avete conosciuto persone, a parte quelli che ospiterete, ci sono persone che sono nel cuore e volete ringraziare, perché un nome me l'avete fatto. Ah sì, però per la parte tecnica, sì, perché sì, prima sì, parlavamo del nostro mitico Romeo Marchi, sì, perché è il nostro fonico di fiducia ormai e ci ha seguito sia per la prima stagione, perché noi partivamo un po' inesperte, quindi abbiamo subito chiesto un po' di aiuto a lui, e ci sta seguendo moltissimo per questa radio, perché la parte tecnica sta diventando un po', cioè era una delle nostre anche ansie maggiori, diciamo, perché ancora, da una parte c'è tutta l'organizzazione degli ospiti, quindi contatta 1000 persone, tieni i contatti, spiegagli il progetto, è disponibile quest'ora, quindi cioè anche organizzare il calendario è stato, diciamo, comunque complesso per accontentare tutti, no? Nelle fasce orarie in cui erano disponibili. Poi però abbiamo un'altra parte tecnica di cui che non siamo abituati a fare, cioè noi non facciamo dirette su Twitch, su YouTube, anche tutta la parte dei musicisti, non abbiamo i musicisti di solito che suonano, quindi diciamo che è tutto un po' nuovo per noi anche questo lato più tecnico, e quindi avere Romeo, che è del settore, ci segue, ci ha dato una sicurezza anche in più, e questo, quindi grazie Romeo. Sì, un cuoricino grande. Sì, cuoricini, ok. Arriva Romeo, ci state tranquille, noi ci tranquillizziamo immediatamente, esatto, perché se ce lo dice lui, allora. Sì, no, poi dobbiamo ancora fare tantissime prove tecniche, perché quelle non ci scappiamo, però comunque sappiamo un po' già come orientarci. Da quando avete iniziato ad organizzare questo evento? Cioè quanto tempo ci è voluto per arrivare a... Beh, allora, la data era già stata fissata tipo ad agosto dell'anno scorso. Ah, okay. No, un pochino più avanti, autunno dell'anno scorso, secondo me. Secondo me, però settembre, cioè non più avanti di quello, che è uscito il primo articolo che parlava di Closer e che quindi anticipava già... Sì, perché Amerigo e Giorgio, appunto, gli adiacenze ci avevano proposto di realizzare noi un evento all'interno del loro progetto Closer. Poi ci abbiamo messo un po' in realtà a definirlo, e inizialmente doveva essere alla fine dell'anno scorso, poi si è spostato quest'anno, e però... Ed è l'evento finale di Close, eh? Uno degli eventi finali. Sì, esatto. Che sì, poi c'è anche una mostra, ho visto, esatto, la Villa da Via. La settimana successiva. Esatto, sì. Okay. C'è anche la mostra Villa da Via, che fa parte sempre del progetto, e questo. Sì, è stato impegnativo. Secondo me a livello proprio di programmazione teorica è quello che ci ha impegnato di più. Quindi poi vedrai la pratica. Cioè ci ha impegnato nel senso a livello di lungo termine, no? Uh-huh. E poi in queste ultime settimane è tutto sul ok, adesso dobbiamo, no, mettere tutto in pratica, tra cui questa parte tecnica che è quella che in realtà ci mette più ansia. Posso fare un... però parentesi, mettiamo le mani avanti. Ci e sarà. Quindi potrebbe succedere qualcosa, cioè a un certo punto noi ci aspettiamo tipo un'implosione di qualcosa. Beh, l'imprevisto tecnico ce lo aspettiamo. Abbiate pazienza. Vedo anche quello nel programma. Sì, l'imprevisto tecnico alle 14:15. Tutto si basa sul buon cuore del mio computer, quindi esatto. Siamo un problema, è la resistenza dei nostri mezzi tecnologici, perché abbiamo la videocamera che deve reagire 24 ore. Sì, che deve reggere 24 ore consecutive, quindi non so. Dopo aver retto una tesi intera. Esatto, cioè, capito? Nel senso. No, vabbè, io proprio diciamo che risetto il mio computer. Cioè, dopo mercoledì lo risetto, così è pronto. Ma per ormai possiamo dire. Perché c'è, esatto. Vuoi dirlo in diretta? Sì, no, perché cosa? Non contenta, ma lo diciamo. Millennium bug, sì, cosa è successo? Esatto. Possiamo dirlo, diciamo. Cosa vai, ditelo voi. Mercoledì 26 marzo, Viola Pierozzi diventa dottoressa in arti visive ufficialmente. Yuhuu! Un applauso. Come? Non mi basta gestire una cosa a settimana. Chiaramente. E c'è stato anche il rischio che la sua laurea fosse esattamente il giorno prima della radio. Ah, no, quindi ecco, no. Cioè, abbiamo mille prove tecniche. Ho scoperto la data tipo 10 giorni fa. Quindi. Ma noi lo faremo. Ma noi faremo tutto benissimo. Sì, sì, sì, sì, sì. Perfetto. Quindi, come diciamo noi, Forza Leona. No, ecco, mi discuto dopo domani, sono qui. vedi, è nel chill. Certo, certo, rigorosamente. Non per interrompere la menzione. Ma sì, come al solito, anche stasera, come ogni lunedì, ci tocca l'angolo della menzione. L'angolo della menzione. E comincio io. Prego. Martedì 25 alle ore 18:30, Hacking del Sé, un libro di Ippolita. L'hacking del sé è un esercizio di cura per disinnescare le norme inscritte nei nostri corpi dal capitalismo del controllo, per annullarne la forza, per creare attrito nei suoi automatismi, per riappropriarci dei nostri modi di sentire e sentirci. Valentina Greco ne parla con Marco Liberatore del gruppo Ippolito. Tutto questo a Modo Info Shop in via Mascarella 24B a Bologna. Giovedì 27 marzo 2025 alle ore 18, la sala conferenze del Mambo ospita la presentazione del libro L'ironia è una cosa seria di Francesco Poli. L'autore è in dialogo con Lorenzo Balbi, direttore del museo. Con il suo volume l'autore fornisce una chiave di lettura inedita per decriptare il dispositivo ironico nell'arte moderna e contemporanea, mettendo in evidenza la carica distruttiva e innovatrice di questa affascinante e sfuggente modalità espressiva. Tutto ciò nella sala conferenze del Mambo in via Don Minzoni 14 a Bologna. Mentre giovedì 27 marzo alle ore 18 inaugura William Congdon, paesaggio come misura del corpo, un progetto a cura di Pasquale Fameri e Giovanni Gardini in collaborazione con The William G. Congdon Foundation, il Museo Diocesiano di Milano e la Galleria d'Arte Contemporanea della Civitate Cristiana d'Assisi. La mostra racconta un aspetto unico della produzione pittorica di William Congdon e la rappresentazione del paesaggio e l'interpretazione di fenomeni atmosferici che caratterizzano la pianura padana. Tutto questo in via Riva di Reno 57 a Bologna. Al Museo Lercaro. Al Museo Lercaro. A cui hanno cambiato dicitura. Prima si chiamava Raccolta Lercaro ed era impossibile per me pronunciarlo. E adesso si chiama Museo Lercaro, è più facile. Ma l'hanno fatto apposta per te, secondo infatti me. Anche secondo me, perché Giovanni Gardini mi vuole bene. Dunque, da giovedì 27 marzo 2025 apre la mostra Che Guevara, Tu i Todos, la mostra ospitata al Museo Civico Archeologico di Bologna dal 27 marzo al 30 giugno 2025 è un viaggio nella storia e nella vita di un uomo che ha segnato profondamente l'immaginario collettivo di intere generazioni, dividendo l'icona stessa del rivoluzionario. Divenendo l'icona stessa del rivoluzionario, Ernesto Guevara della Serna, universalmente conosciuto come Che Guevara. Nato a Rosario nel 28, morto a Ligueira nel 67. L'esposizione, ideata e realizzata da Simmetrico Culture, curata da Daniele Zambelli, Flavio Andreini, Camilo Guevara e Maria del Carmen Ariet Garcia. Tutto questo al Museo Archeologico in via dell'Archiginnasio 2 a Bologna. Venerdì 28 marzo 2025 dalle 9:30 si svolge Studiare al Museo, Studiare il Museo, quinta edizione della giornata di studi online promossa da AMACI, Associazione dei Musei dell'Arte Contemporanea Italiani. Studiare al Museo, Studiare il Museo, a cura di Elisabetta Barisoni, dirigente area musei della Fondazione Musei Civici di Venezia, e Mazzanella, direttrice del MAGA. MAGA. MAGA. esplora il ruolo formativo dei musei favorendo il dialogo tra esperte ed esperti del settore con questo basso livello di radiofonia. Cosa è successo? Scusa, mi sono sbagliato. Favorendo il dialogo. Mi sono distratto perché in effetti Maga per un museo non è che adesso che di questi giorni non è un gran nome. Ma sta cercando di sabotarti questa sera. Infatti, scusa, doveva interrompere. Io proseguirei così, facendo finta di nulla, favorendo il dialogo tra esperte ed esperti del settore con l'obiettivo di individuare buone pratiche e rafforzare le sinergie con il Ministero della Cultura, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, le università, gli istituti AFAM, artiste e artisti che vedono nei musei un interlocutore strategico per percorsi di formazione e alta formazione. Partecipazione gratuita su iscrizione obbligatoria a questo link www. Tutte le info però su amaci.org. Esatto. Voilà. Sabato 29 marzo alle ore 12 presso il Museo Carlo Zauli di Faenza si terrà l'evento di restituzione conclusiva del progetto School of Knotting, scuola di ceramica per artisti a cura di Viola Maldi, una residenza diffusa realizzata nel 2024 in occasione del ventennale delle residenze d'artista del Museo Carlo Zauli. Nell'ambito dell'evento verranno presentati gli esiti dei processi di residenza che hanno coinvolto 10 artisti visivi e sarà presentata la pubblicazione come esito finale del progetto. Tutto questo al Museo Carlo Zauli in via della Croce numero 6, 48018 a Faenza. Sempre sabato dalle 12 fino alle 12 del 30 marzo abbiamo invece Radio 12 to 12, una diretta di 24 ore condotta da Fuori Sedia Podcast per Closer. Eccoci qua. Cos'altro dobbiamo leggere tutto? Andrea, sabato 29 marzo? No, le tematiche attorno a tutto è. Lo ricordiamo. Nel corso delle 24 ore verrà attivata una video diretta streaming alla quale si potrà accedere attraverso i canali Fuori Sedia di YouTube, Twitch e Instagram. I link d'accesso saranno resi disponibili sulle rispettive piattaforme da sabato 29 marzo. Tutto questo naturalmente succede dal vivo ad adiacenze in Vicolo Spirito Santo 1B a Bologna. E quindi, sabato 29 marzo alle ore 18, in occasione del finissage della mostra Hybridarium, Nelumbo è felice di ospitare Mirella Montalbano che dialogherà con Ottavia Monaco sulla possibilità dell'arte e in particolare dell'opera dell'artista, di contribuire a trasformare e sensibilizzare lo sguardo sul mondo terrestre. Nelumbo in via Arienti 10 a Bologna, nelumbo.it. Sempre sabato 29 marzo dalle 19 alle 23 c'è Francesca Arri con Di Oscuri, la performance entra nel club spazio di dissidenza al buio dei nostri tempi. Francesca Arri porta la sua ricerca performativa a Bologna intrecciando arte, club, culture e politica del corpo in un evento che si sviluppa tra la scena del 5C Lab e un'opera di arte pubblica in Piazza Maggiore. Uno speakeasy dove la performance diventa un gioco di specchi tra passato e presente e che per questa occasione ospita. Li devo leggere tutti quanti? Assolutamente sì. Assolutamente sì. Francesca Disconzi, curatrice di Osservatorio Futura, Dead Cyber, autore delle video performance realizzate con intelligenza artificiale, Elson Five, parte del collettivo torinese Cabaret Bizarre, le fotografie di Marco Guastella, testimonianza delle notti di Slow Coma. Francesca Arri, performer e artista multidisciplinare, esplora il clubbing come ultima pratica di dissenso pacifico e di aggregazione. Questo è il 5C Lab, Serendippo, Vicolo dei Facchini, 5C, Bologna. Mi tocca quello più lungo in assoluto, ovvero lunedì 31 marzo alle 14 l'Accademia di Belle Arti di Bologna presenta il progetto culturale biennale 30 anni di desiderio 1995-2000 TPO Teatro Polivalente Occupato e Accademia di Belle Arti di Bologna a cura di Anna De Manicor e Fabiola Naldi. Nel novembre del 1995 un gruppo di giovani lavoratori e lavoratrici dello spettacolo, artisti, artiste, studenti e studentesse, occupa gli spazi del Teatro dell'Accademia di Belle Arti di Bologna. Nasce così la vicenda del Teatro Polivalente Occupato di Via Ernerio. Nell'arco di 5 anni lo spazio si apre alla città divenendo uno dei luoghi di aggregazione culturale più rilevanti a livello nazionale e dichiarandosi spazio di sperimentazione politica ed esistenziale per la generazione che vedrà poi soffocare le proprie istanze nelle giornate di Genova 2001. lunedì 31 marzo dalle 14 alle 18 il primo appuntamento dal titolo 5 anni di desiderio, incontro e laboratorio sulle narrazioni sonore con Massimo Carozzi, artista e sound designer, Agnese Corneglio, autrice e regista, che guideranno il pubblico all'ascolto dell'omonimo audio documentario da loro realizzato con il contributo editoriale di un gruppo di studenti e studentesse dell'Accademia di Belle Arti di Bologna per Rai Radio 3, con archivi e interviste ai protagonisti dell'occupazione e autogestione del TPO. Tutto questo all'Accademia di Belle Arti di Bologna in via Belle Arti 54 a Bologna. Passiamo all'ultimo, lunedì 31 marzo alle ore 18, Alice Milani, nel paese degli Inuit, chiacchierata con l'autrice e reading di Rossella Dassu, in occasione di Bologna Children's Book Fair e Boom, crescere nei libri. Tutto questo allo spazio adiacenze, vicolo Spirito Santo, una via a Bologna. Yeah. Anche adiacenze, abbiamo non chiuso. Scherza con gli impegni che si prende. No, con... no, vabbè, chiaramente no. No, no, no, no. Passiamo in linea, eh? Esatto, ci siamo trovati per questo. Infatti, capisco benissimo. Ma salutiamoli. Salutiamoli. Salutiamo Amerigo e Giorgio. Certo. Salutiamoli. Certo. Con cui ci siamo sentiti fino a 30 secondi prima. Chissà se ci stanno ascoltando. Spero di sì. Cioè, beh, se non ci stanno ascoltando ora, domani possono ascoltare in differita. Su coxospaziale.blogspot.com naturalmente potete trovare anche tutti i link di tutto quello che abbiamo elencato oggi. Benissimo. Che cos'è questo bi bi bi bi? C'è un trillo. Troppi telefoni. Troppi telefoni, può essere. Sì, modalità aereo, tutti? Modalità aereo. No. Io. Messa. Anch'io. Sì, no, se va bene sono io comunque. Ah, ok. Che il mio naturalmente non è. Cuffia. Infatti. Vi faccio la domanda a tema libero? Dai. Chi è che dice qualcosa a tema libero? Una curiosità? Una... Ma, facciamo un po' per uno. No, voglio sapere su di che cosa parla la tesi di Viola. Ah, sì! Anzi, voglio ce l'abbiamo 45 minuti? No, ne abbiamo 10. Allora, perfetto, 9. Il tempo del... Che è esattamente il tempo che mi hanno concesso per discutere. No, vabbè, dico brevemente, poi passerei. Sì, non è che ci devi fare il discorso. No, dico solo che la mia tesi si chiama Il museo come spazio di protesta, il caso studio di Nan Goldin e del gruppo Pain. Oh, e wow. Quindi analizzo insomma, quello che poi è uscito fuori, è stato anticipato dal documentario di Laura Poitras che è uscito un paio di anni fa. Diciamo che la mia tesi è un po' un proseguo di quello. Mm-hmm. E parlo, ecco, dell'unico caso in cui effettivamente le proteste nei musei hanno portato ad un esito che poi ha avuto ripercussioni anche dal punto di vista legale verso questa famiglia che, insomma, ha finanziato per anni e anni tutti i musei più importanti del mondo e allo stesso tempo però aveva anche il brevetto per l'ossicodone, per sì. E quindi appunto che era questo medicinale che era, provoca dipendenza, sì, che ha creato cui... la crisi degli oppioidi in America. Infatti. Esatto, quindi in brevementissimo è questo. Tanta sì, roba, tanta roba. Sì, adesso nessun museo, galleria o spazio espositivo ha il nome dei Sackler all'interno delle proprie collezioni, che appunto erano questa famiglia, ed è grazie a Payne, quindi sì. Ma se possiamo, ecco, avere un argomento libero su 12 to 12, forse farei giusto un recap di tutti i nomi delle persone che ci saranno, sì, per ringraziarle. Facciamo in tempo, velocissime. Facciamo una sfida, cioè carrellata, se per voi va bene. Assolutamente facciamo, sì. Facciamo una carrellata. Inizio io con la prima parte? No, basta, è finito il tempo. No! Davvero, decido io, prego. Allora, Giulia Briganti di Maud, Claudio Gerardi, Beniamino Della Gala e Simone Giorgio, Avanguardia Diffusa da Radio Alice a Radio Blisset, Joshua Cesa di Io Deposito, Le Comari dell'Arte, Condotto 48, Chloe Bass e Laura Rajkovic, Libere Frequenze, Alessandra Giacchetti e Matilde Sabato. Vado al secondo. E poi abbiamo Emanuele Rinaldo Meschini e Jacopo De Blasio. Poi abbiamo sempre Libere Frequenze con Edoardo Tempieri e Valerio Timo, Giuseppe Virelli, Massimo Carozzi, Lo Spazio Letterario, Arti Erranti, di Libere Frequenze Giovanni Iozia e Digno Piccino, e Stefano W. Pasquini e Chiara Pergola. Dopodiché, sempre con Libere Frequenze, abbiamo il collettivo Ore con Andrea Geremia e Leonardo Vita, Stefania Rinaldi, di nuovo Libere Frequenze, collettivo HHHH, con Nicola Boninfante, Vijay Comino e Manuel Pappalardo, Sofia Torre, I Disastro, Michele Amaglio e Dimitri D'Ippolito, Marzio Zorio, con Sorro, La Seppia, Libere Frequenze, Saturday Life Rec, Simone Cariota, Amerigo Mariotti, Paola Pietronave con tutti i ricercatori, quindi Saverio Osso, Berto Tucani, Laria Moscardi, Chiara Giardi e Mock Asrul, mi perdonerà la pronuncia, e poi di nuovo Libere Frequenze con Alberto Brutti, Milena Punzi e Leonardo Vita. Poi abbiamo Tellurio Museale di Libere Frequenze, Biagio Cavallo, Andrea Fabris e Riccardo Tesorini, poi abbiamo Sara Papini, poi di Libere Frequenze ancora Margherita Parenti, Camilla Bruni e Alien Co, e poi ci siamo noi che finiamo. Il bordello. Dice, io ho letto nel programma bordello. Ho detto, ma lo spiegherete. Sì, il bordello è nel senso che gli ultimi 40 minuti, mezz'ora, okay, saranno la, così diciamo, la caciara. Naturalmente ci saranno anche Giulia Quadrelli, Lisa Mignemi e Cinzia Corda, certo, come ospiti di Cox Spaziale. Esattamente. Sì, abbiamo un sacco di microfoni, quindi perfetto, ottimo. C'è posto per e tutti. Altrettante cuffie. Esatto. Io vi ringrazio come al solito, è sempre un super piacere avervi qua, anche se, ringraziamo voi, anche se prima o poi ce la faremo ad avervi tutte e quattro in contemporanea. Neanche noi riusciamo a vederci tutte e quattro contemporaneamente, quindi. Martina, pronta? Povera Marti, la prima volta c'è stato, sì, la prima volta però qua. Siamo venute tutte e quattro, sì. Tra noi quando ci vediamo di solito manca no. sempre una manca sempre okay. una o due, sì. No, noi ringraziamo voi. Esatto, ma perché c'è una che si traveste da qualcun altro, è un po' come non ho mai visto tutte le fuorisedie nella stessa stanza. Esatto, forse non siamo quattro. E naturalmente ringraziamo anche gli amici di Panta 80, perché noi siamo sempre in ritardo a dire questa cosa qua. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. La sigla, come al solito, non poteva essere che Vomito, che ormai è diventato il nostro tormentone per l'estate. Tormentone primaverile. Infatti. Grazie di nuovo, ci grazie, vediamo sabato. Sì, a sabato. A sabato. A sabato. Cosa succede? Qualcosa non va. Mi fa venire il vomito, la realtà. Succede, qualcosa non va. Mi fa venire il vomito la città. Cosa succede? Qualcosa non va. Mi fa venire il vomito la realtà. Da quando non sei più qua. Prenoto il dermatologo. Che schifo le cose. cose che